è ora di far sentire la voce di chi non accetta che la popolazione civile di Fallujah, come delle altre città irachene, sia sottoposta ormai da giorni a bombardamenti aerei senza nessuna legittimità internazionale, che anziché colpire i terroristi colpiscono uomini, donne e bambini innocenti. Per questo andrebbe fatto un corridoio umanitario, che almeno per qualche giorno le armi tacciano. Quando presenterete la mozione? Ma noi la mozione la abbiamo predisposta, domani chiederemo un incontro ai capigruppo dell'opposizione per arrivare a una mozione unitaria. Tra domani, nella giornata di domani, credo depositeremo il testo della mozione. Come Verdi già ne avevamo depositato uno la settimana scorsa, adesso vi è un testo condiviso anche dal resto delle forze politiche pacifiste. La nostra non è un'iniziativa per dividere, la nostra è un'iniziativa per evitare che l'Italia rimanga ultima. Noi non vorremmo che si arrivi al paradosso che gli Stati Uniti decidono di ritirare i propri soldati e l'Italia li decide di mantenere, sarebbe veramente un paradosso.